Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Sono poco meno di 2.600 i progetti previsti nella nostra regione nel quadro del PNRR, ma oltre la metà non ha ancora ricevuto il via libera e non è nemmeno partito quello più costoso, il potenziamento della linea ferroviaria fra Trieste e Venezia, che da solo vale quasi un terzo dei finanziamenti. In questa edizione faremo il punto sul piano e sul livello di progettualità finora raggiunto. Andremo poi nell'area di Gorizia, sul versante sloveno, dove numerose associazioni si battono per la chiusura di un'azienda che produce asfalto. La protesta è transfrontaliera. Nel menù della domenica, naturalmente, anche lo sport. Tra i temi, l'ultima giornata nel massimo campionato di calcio. Questa sera, Udinese-Juventus. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato spesso in queste settimane oggetto di scontro fra governo e Unione Europea e negli ultimi giorni le frizioni hanno riguardato soprattutto i controlli. Oggi da Bruxelles si abbassano i toni mentre Palazzo Chigi ribadisce la propria posizione dopo il documento in 8 punti prodotto nel quadro delle trattative per lo sblocco della terza rata di finanziamenti. Intanto il bilancio delle opere avviate in Friuli Venezia Giulia è ancora deficitario. Ecco la situazione di quelli principali. L'Italia in ritardo ha difficoltà sulla realizzazione del PNRR, con finora solo l'8% dei fondi per le opere pubbliche che è stato speso. Il governo sta cercando la mediazione con l'Unione Europea su come riprogrammare le misure per non perdere i soldi e lo stesso presidente della regione Fedriga ha in diverse circostanze auspicato questa soluzione. Ma com'è lo stato delle opere in Friuli Venezia Giulia? Secondo i dati aperti resi disponibili dal Ministero, sono 2.594 i progetti per un totale di ben oltre 1,5 miliardi di euro, che rimane tuttavia l'investimento pro capite più basso tra le regioni. Più di metà non sono ancora stati nemmeno validati e si parla di tutti quelli più costosi. Il potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Venezia, ad esempio, beneficiario di quasi 450 milioni, non è in ritardo rispetto alla tabella, ma non è proprio nemmeno partito. Questo vale per tutti i progetti in capo a RFI. Secondo i piani di avanzamento, invece, in netto ritardo la progettazione per la riduzione delle perdite idriche, 37 milioni con il gruppo ERA soggetto attuatore. L'indicatore di realizzazione entro la fine di giugno dovrebbe essere 53. E invece a zero. Va poco meglio al comune di Gorizia, sui 20 milioni per la rigenerazione del castello, l'indice di realizzazione è a 20 su 60. Secondo il sindaco Ziberna, tuttavia, l'opera sarà pronta ben prima del 2026, con un'accelerazione già nei prossimi mesi, una volta ottenuto l'ok della sovrintendenza. A Trieste, per la discussa cabinovia da 48 milioni, c'è tempo fino a fine anno per arrivare al 50% dello stato di avanzamento, ma al momento manca ancora il progetto esecutivo, che viene promesso entro l'estate. In Friuli bisogna correre per il riammodernamento della Udine Cividale, risulta al 22% quando secondo la tabella di marcia dovrebbe essere ben oltre il 50%. A faticare tuttavia sono soprattutto le opere più piccole, come ad esempio la ricostruzione di alcune scuole in capo ai comuni. Dovrebbero essere consegnate nel 2025, ma in diversi casi non sono nemmeno partiti i progetti preliminari. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Trasporto aereo, in corso lo sciopero di 24 ore indetto dai controllori di volo e dal personale di alcune compagnie. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono stati cancellati i collegamenti da e per Roma Fiumicino, rispettivamente delle 13.25 e delle 15.25, e quelli da e per Francoforte, rispettivamente delle 13.13 e delle 15. 14 associazioni si battono per la chiusura e lo spostamento delle attività di un'azienda che produce asfalto a Vrtojba. Una protesta transfrontaliera. Uno stabilimento vicinissimo al centro abitato di Vrtojba, cittadina di 2.500 abitanti situata a sud-est di Gorizia, da cui dista poche centinaia di metri. Sorta nel 1965 come cava di ghiaia, l'azienda Cestno Podieti e Gorizia già nei primi anni 80 ha iniziato a produrre asfalto, rilasciando polveri ed odori che con il vento giungono tuttora a Gorizia, toccando in particolare il rione limitrofo di Sant'Andrea. Le istituzioni di vigilanza ambientale slovene non hanno mai effettuato analisi specifiche sulle emissioni e quindi le 14 associazioni che si battono per la chiusura e lo spostamento delle attività le hanno realizzate autonomamente con l'organizzazione non governativa Alpe Adria Green di Jesenice. Ne è emersa la presenza nell'aria di idrocarburi policiclici aromatici inquinanti e potenzialmente cancerogeni. Luca Cadez di Legambiente Gorizia. Se anche in Slovenia sono state svolte delle analisi, ad esempio, sui suoli per verificare la presenza di inquinanti depositati, pensiamo che lo stesso vada fatto anche in Italia. Le associazioni evidenziano che dalle ricerche documentali l'attività estrattiva e trasformativa non ha mai ottenuto le necessarie autorizzazioni edilizie e ambientali. I comuni di Šempeter-Vrtojba e Nova Gorica già nel 1988 avevano deliberato la chiusura dello stabilimento e la destinazione dell'area ad attività sportive. Legambiente ha chiesto anche l'intervento del GECT, il gruppo europeo per la cooperazione transfrontaliera, e il 22 di questo mese organizzeremo un incontro pubblico proprio a Sant'Andrea. Šempeter-Vrtojba, Maurizio Mervar, TGR, Friuli, Venezia, Giulia. Uno sguardo al tempo, abbiamo cielo da coperto variabile sulla regione, in diverse aree piove. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 21 gradi, il mare ha una temperatura di 19 gradi. A Pordenone 19, a Gorizia e Udine 16 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 16, a Tarvisio 15, a Sappada 13,5, a Fone di Sopra 12,5, sul Piancavallo 11 gradi e ancora in quota sul Lussario e sullo Zoncolan 9 gradi. Sulla costa Lignano 21, a Grado 19, con temperatura del mare 21 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Tempo abbastanza instabile, con cielo variabile su pianura e costa, in prevalenza nuvoloso sulla zona montana. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, specie sulle zone interne della pianura e sulle prealpi. Piogge anche abbondanti sulla zona montana. Sulla costa venti a regime di brezza e probabile maggiore presenza di sole. Qualche temporale localmente potrà essere anche forte. Per domani al mattino cielo in prevalenza nuvoloso su pianura e costa, coperto sulla zona montana. In giornata nuvolosità variabile su tutte le zone. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, con piogge più abbondanti sulla zona montana. Sulla costa vento da est o sud-est moderato. Qualche temporale localmente potrà essere anche forte. Si apre nel pomeriggio il Festival Pordenone Pensa, appuntamento inaugurale alle 16 a Cinema Zero, quello con il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che sarà intervistato da Paolo Corsini, a lungo giornalista parlamentare RAI e responsabile degli approfondimenti informativi. La rassegna proseguirà fino all'8 giugno, nei prossimi giorni gli ospiti saranno tra gli altri Gianluigi Nuzzi, Maria Rita Parsi e Alberto Mingardi. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli si svolgerà al Teatro Pasolini di Cervignano, anziché nel Parco di Villa Chiozza a Scodovacca, l'appuntamento di apertura della rassegna Palchi nei Parchi. Il titolo, I nostri classici, Davide Riondino accompagna Dario Vergassola a incontrare Flaubert. L'inizio alle 18.30. La musica e la partitura delle Four Seasons Recomposed, ovvero la riscrittura in forma contemporanea delle quattro stagioni di Vivaldi da parte del compositore inglese Max Richter, nel concerto La Natura Reimmaginata, che l'Orchestra San Marco di Pordenone, diretta da Ben Palmer, presenterà questa sera a Cordenons alle 20.45 nell'auditorium del Centro Aldo Moro. Star dell'evento la violinista inglese Fenella Humphries, che arriva per la prima volta su un palcoscenico della nostra regione. E adesso lo sport, calcio, basket e ciclismo nel menù della giornata. I protagonisti sono l'Udinese, l'Apu e i giovani corridori del Giro del Friuli Venezia Giulia, impegnati nell'ultima tappa che si sta disputando sotto la pioggia. Dopo tre sconfitte di fila, compresa quella con la Salernitana 8 giorni fa, l'Udinese si ripresenta al suo pubblico per l'ultima di campionato. La partita con la Juve per i bianconeri friulani non avrà riflessi sulla classifica. Lunga la lista di indisponibili, la retroguardia è tutta da inventare, con probabile spazio a qualche giovane, molte assenze anche nella Juve, che però si gioca le residue speranze di Europa League, calcio d'inizio alle 21. Nel basket Udine a Forlì per gara 2 della serie che vale la finale promozione. Gli uomini di Finetti hanno perso la prima di un soffio anche per una serie di scelte sbagliate nei momenti decisivi, in una partita fatta più di tensione agonistica che di qualità. Vincere stasera darebbe la possibilità di giocare le due gare in casa partendo dall'1-1. Davanti però c'è una squadra che ha dominato la stagione regolare e che finora con Udine ha vinto 3 partite su 3. Sarà fondamentale coinvolgere Terry, come accaduto nel primo e nel terzo quarto di gara 1. Palla a 2 alle 19. Giornata decisiva infine per il giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia riservato agli juniores. In corso la Pordenone San Daniele di 108 km con circuito finale ricco di insidiosi strappi in salita, comanda la classifica il veneto Filippo Cettolin che dopo la vittoria con la sua squadra nella prima tappa a cronometro si è imposto anche nella gara in linea di ieri, la Cordenons Cimolais. Vittoria allo sprint che non ha dunque creato distacchi, il successo finale è ancora tutto da assegnare. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La combinata nordica, primo raduno stagionale per le squadre azzurre che si ritroveranno domani a Tarvisio per una serie di allenamenti pre-stagionali fino a venerdì. Tra i convocati ci sono Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Greta Pinzani, nello staff tecnico Andrea Morassi e Simone Pinzani. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar e Vassia Krismancic, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:25 minuti 30 secondi, adesso la linea Radio 1, prossima edizione del GR regionale alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.